Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti e benvenuti a questa seconda delle nostre 5 lezioni di jazz domenicali. La volta scorsa abbiamo raccontato la genesi dell'album Kind of Blue. Oggi invece entriamo in un discorso diverso relativo a alcune trasformazioni del linguaggio del jazz. E l'argomento, come vedete, è quello del rapporto fra il jazz e la danza, il jazz e il corpo, il jazz e il movimento. È un argomento molto importante, anche se di solito sottovalutato anche nei libri, nelle storie del jazz, perché la condizione da circa 50 anni nella quale noi ascoltiamo il jazz di solito è una condizione come quella di questa mattina, cioè sedentaria. Andiamo a sentire il concerto, paghiamo un biglietto, ci sediamo sulla nostra comoda sedia in platea e, o in un club anche, stiamo seduti e ascoltiamo la musica da seduti. In realtà questa è la condizione di ascolto del jazz degli ultimi anni, ma il jazz in realtà è nato come musica da ballo e molte delle caratteristiche strutturali proprio del linguaggio jazzistico sono state modellate dal movimento del corpo. Quello che cercherò di mostrarvi oggi, insieme a molti filmati, alcuni dei quali piuttosto curiosi, rari e sicuramente appassionanti, è come il corpo ha modellato il linguaggio musicale, come certe scelte musicali siano il risultato dell'interazione con chi balla o comunque con chi ha delle idee legate al movimento corporeo. In genere, quando si parla di movimento corporeo, si tende a fare una grande distinzione fra due atteggiamenti culturali. Faccio una distinzione molto grossolana, molto netta. È come se il mondo fosse diviso in due grandi atteggiamenti corporei. Questo soprattutto nelle danze popolari legate, per esempio, a certe ritualità e al lavoro. Ci sono, dicevo, due grandi aree. Un'area è quella che potremmo chiamare l'area della rigidità del tronco, cioè ci sono danze che, penso ad esempio, che ne so, al valzer, in cui il tronco, il bacino e le gambe formano una specie di unico asse, per cui non c'è movimento del bacino, c'è una sostanziale rigidità, dovrei dire, di quest'asse verticale. Naturalmente, se pensate al valzer, i piedi si muovono, i partner sono abbracciati, pensate anche alle danze orientali, ad esempio, c'è una sostanziale staticità del tronco e soprattutto del bacino. Invece poi ci sono delle danze che sono più legate a culture, per esempio, di origine africana, in cui c'è una maggiore articolazione degli arti e soprattutto, e questo è il punto chiave, un utilizzo del bacino come punto di snodo nei movimenti sia delle gambe sia del tronco e ovviamente poi dal tronco alle braccia. Il fatto che il bacino si possa muovere e che comunque sia il punto di snodo di questi movimenti è legato evidentemente ad una più esplicita allusione sessuale al movimento del bacino e quindi ad un legame con, per esempio, rituali di fertilità. La danza occidentale negli ultimi secoli è stata sostanzialmente una danza legata a movimenti del primo tipo, soprattutto le grandi danze sociali e collettive del mondo moderno, mentre le danze appunto di tipo africano sono danze legate a questo rapporto invece più immediato con la corporeità e con la sessualità. Tant'è che c'è da dire che una delle grandi rivoluzioni nel costume, negli atteggiamenti espressivi in generale, portate da questo evento tragico che è stata la tratta degli schiavi, che però ha portato con sé appunto una vera e propria rivoluzione espressiva, è proprio il diverso modo in cui oggi noi danziamo, il diverso modo in cui concepiamo il corpo. In altre parole, milioni di schiavi portati dall'Africa sulle coste dell'America Atlantica, dal Nord America al Sud America, hanno scardinato una secolare concezione della danza di tipo, diciamo così, platonico-cristiana, quindi legata a una certa repressione del corpo, una rigidità, ad un mettere da parte o mettere la sordina agli aspetti più sessuali, per esempio, della corporeità, e invece queste danze africane più arcaiche hanno riportato, il piacere del corpo legato a un movimento di natura sessuale. Io adesso qui non farò una storia della danza, delle danze africane e tantomeno delle danze afroamericane, perché ci sarebbe da fare un discorso molto ampio, perché vorrei invece poi concentrarmi sul jazz, naturalmente, ma non posso fare a meno di ricordare che nel mondo della schiavitù, tra XVII, XVIII, XIX secolo, negli Stati Uniti, e qui non mi metto a parlare ovviamente di Cuba, del Brasile, dovrei ricordare che già questo potrà essere, che so, oggetto di una lezione magari l'anno prossimo, che già per esempio nel Mediterraneo rinascimentale e nel primo barocco si danzavano danze di origine africana, ma ci concentriamo sulla schiavitù americana. Bene, naturalmente gli schiavi in Nord America danzavano e danzavano con passi di cui oggi noi siamo perfino in grado di riconoscere l'origine. Anche perché, per esempio, abbiamo delle testimonianze visive, come questo acquerello di fine Settecento, primo Ottocento, del South Carolina, dove vediamo, non mi soffermo sulla parte musicale, all'estrema destra, una specie di banjo, un piccolo tamburello, con questo suono, quindi dobbiamo immaginare secco, ritmico, e però c'è questa danza al centro, che è una danza di accoglienza. Notate i fazzoletti delle due donne, di qualcuno che ha un rango, diciamo così, superiore, il bastone come simbolo di questo rango. Ma quello che vorrei farvi notare è come ci sia da parte delle donne questo movimento leggero, diciamo, dei piedi, è quasi un'anticipazione di quello che poi chiameremo shuffle. Immaginatevi Michael Jackson al posto delle due donne, non lo dico sul serio, no? Proprio quel tipo di movimento. E notate invece il movimento più, tra virgolette, squilibrato dell'uomo, che ha il busto che cade in avanti, i piedi, anche se si capisce che, insomma, l'autore dell'acquerello non è Leonardo da Vinci, ma insomma cerca di rendere il movimento. Notate il bacino come punto di snodo e soprattutto questa specie di caduta in avanti. Poi quante volte avete visto, che so, nei musical americani Fred Astaire o Gene Kelly danzare con questo movimento, questo camminare come se si stesse per cadere, no? Correre come se si stesse per cadere, con il busto molto rivolto in avanti. Questa è una tipica danza degli schiavi, ci dà l'idea del tipo di una qualche idea del tipo di movimento. Non era l'unica danza, naturalmente, questa, che tra l'altro riconosciamo come una danza di origine Yoruba, in particolare. Ma c'erano altre danze che qui adesso non approfondisco, la più importante delle quali si chiamava Ring Shout, che era una danza invece circolare, in cui le persone danzano in tondo, eventualmente con qualcuno al centro, in senso anti-orario, e anche qui con lo shuffle, cioè senza alzare troppo i piedi da terra per a dare invece un certo senso del ritmo. Ma non è questo, diciamo, quello che vorrei approfondire. Invece il punto successivo è ricordare come dagli anni 40 dell'Ottocento siano comparsi grandi personaggi attivi soprattutto nel mondo del minstrel, il più importante dei quali era William Henry Lane, che è stato conosciuto nel mondo dello spettacolo come Master Juba. Tra l'altro venne perfino in Europa, si esibì perfino in Europa, era un personaggio celebre, che è stato una sorta di anticipatore, o se volete di precursore, del tip-tap. In particolare Master Juba era un maestro di questa danza ritmica che, come vedete, implica, e questa è una cosa che vedremo anche più avanti, alzare moltissimo le ginocchia, E dobbiamo immaginare che muovendo le gambe in quel modo facesse dei ritmi molto simili ai ritmi che si ascoltano nelle canzoni ottocentesche del minstrel, cioè dei ritmi sincopati, dei ritmi di origine africana, appunto. Master Juba è stato attivo, e non era uno schiavo, è stato attivo negli anni della schiavitù ed è stato il primo grande divulgatore di ritmi africani suonati con i piedi. Il fatto che fossero suonati con i piedi questi ritmi ha a che fare con un problema culturale generale della schiavitù in Nord America. Vi ricordo che in Nord America strumenti importantissimi nella cultura africana, come per esempio i tamburi, erano sostanzialmente proibiti. E quindi molte caratteristiche musicali dell'Africa occidentale sono state rifunzionalizzate, sono state spostate e riadattate su altri ambiti. In particolare, in questo caso, i piedi. In realtà c'era anche un altro tipo di un altro modo per portare il ritmo, che era quello di battere il corpo, in particolare le spalle, il petto, le cosce e naturalmente i palmi delle mani, ritmicamente. Si chiamava patting juba questo. Oppure, come fa invece Master Juba, con i piedi. Ora, tutto questo, come potete capire, è frutto di, non so come dire, diciamo di supposizioni, però, perché non abbiamo filmati o cose del genere, però abbiamo per esempio dei disegni molto precisi. Questo è Master Juba, è l'uomo, il ragazzo al centro, che danza in una festa danzante in cui ci sono degli schiavi, c'è anche qualche uomo bianco. Qui siamo durante il tour che Master Juba fece a Londra. L'autore di questo disegno è Charles Dickens, che assistette ad una esibizione di Master Juba e ne fece una cronaca vivida. Vi prego di notare ancora una volta il movimento del busto con il bacino che fa da snodo, le ginocchia molto rialzate, guardate l'uomo a sinistra in fondo che evidentemente porta questo ritmo, e il carattere estatico, o meglio, più che estatico, di trance, perché l'estasi è esattamente il contrario, porta una specie di rigidità. Invece questa scioltezza fisica, che era qualcosa di assolutamente inaudito, di qualcosa di mai visto, e che porta con sé anche una componente acrobatica nella danza, che poi ritroveremo per esempio nelle danze e nei balli delle sale da ballo degli anni 30 e 40, di cui parleremo più avanti. Qui stiamo assistendo a una vera e propria rivoluzione del corpo in Occidente, che poi arriva fino alle nostre sale e alle nostre discoteche, e ai rave party, cioè questa idea di liberarsi attraverso il corpo. Come vi dicevo, tutte queste testimonianze sono testimonianze di tipo iconografico o di racconti. Non abbiamo ovviamente filmati, ma abbiamo appunto solamente disegni, però abbiamo anche molti dati. Per esempio sappiamo che la città chiave nella quale è nato il jazz, cioè New Orleans, era una città che danzava tutte le ore del giorno e della notte. Ci sono alcune testimonianze molto divertenti che io riporto nel mio libro di storia del jazz, di viaggiatori che arrivano dall'Europa, magari per affari, e dicono, arrivano a New Orleans e dicono, ma qui sono tutti pazzi, qui ballano sempre, dalla mattina alla sera. Cioè, che razza di vita fanno? Meravigliosa, aggiungo io. Cioè, ballano dalla mattina alla sera, giorni festivi, feriali. New Orleans è piena di occasioni di ballo, si organizzano, vi ricordo che non esistono le sale da ballo pubbliche, le persone affittano un posto, si invitano fra di loro e si ritrovano il giorno tale, all'ora tale, con un gruppo musicale che suona per ballare. E ci sono decine di occasioni ogni settimana. New Orleans è una città che balla. E balla con una particolare scioltezza nuova nel momento in cui, tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, comincia ad apparire questa nuova musica che poi più tardi abbiamo chiamato jazz e che aveva una cosa che a New Orleans si chiamava il lilt, cioè una specie di leggerezza ritmica e che più tardi chiameremo swing, che è questa elasticità musicale che non è altro che l'equivalente di questa elasticità corporea portata dalle musiche africane e dalla corporeità, dalle danze africane. Come danzavano i neri a New Orleans? Non lo sappiamo esattamente, però tempo fa è venuto fuori un filmato che adesso vi farò vedere, del 1914 a San Francisco, in cui in una sala da ballo, vediamo un gruppo di persone afroamericane che danzano una danza che all'epoca si chiamava Texas Tommy. Vi faccio vedere questo filmato, è un filmato che ha delle scritte sovrapposte, c'è un time code, io l'ho anche rallentato perché altrimenti era tutto accelerato, non si capiscono bene i passi, però vi prego di osservare attentamente i movimenti, soprattutto dei piedi, perché quando io prima ho citato Michael Jackson non l'ho fatto a caso, perché qui ci sono tutti i passi di James Brown, di Michael Jackson, del tip-tap, e di tutta la danza americana del Novecento. Ovviamente è muto. Vi prego di osservare attentamente il movimento dei piedi. Dietro c'è una band che si intravede appena. Guardate quello al centro, come danza. Guardate come si avvicinano l'uomo e la donna, appunto. Ora fate attenzione a quello che succede nell'angolo in fondo a sinistra. Le coppie si scambiano rapidamente, come quasi in una specie di quadriglia più informale. Guardate l'uomo in fondo a sinistra come danza. Voi direte moderno, è di 100 anni fa. Guardate, poi si avvicina a questa donna. Guardate quest'altro come si avvicina. Ops, il movimento del bacino. Qui vedete una coppia, dietro c'è il gruppo musicale. C'è un cane perfino. La situazione è molto informale, c'è il cameriere che passa, la gente che balla, è un documento eccezionale. Guardate i movimenti dei piedi, è già il rock and roll. Il tempo doveva essere rapidissimo, vedete a che velocità danzano. A questa velocità, forse anche di più. Questo è quello che succedeva nelle sale da ballo nere, come vedete. In realtà la danza popolare che veniva ballata anche dai bianchi all'inizio, tra fine 800 e primi 900, era un'altra danza di origine schiavista. Ed era una danza che prende il nome di cake walk, cioè il passo della torta, perché durante la schiavitù questi schiavi che ballavano, facevano delle gare che si concludevano con la conquista di una torta, che era il premio per la coppia migliore. Il cake walk, cioè il passo appunto della torta, è una danza con delle strane caratteristiche. Vedete, è una specie di passerella con un atteggiamento cerimonioso, esageratissimo, spesso talmente esagerato che, come vedete nella foto a destra, di nuovo si tende ad alzare molto le ginocchia. Notate la ragazzina, per esempio, che si alza un po' la gonna, se la tiene come la donna invece con il vestito salmone lì al centro, il cilindro, questo atteggiamento molto esagerato, notate la torta anche in quella illustrazione più avanti, a sinistra, e questa danza così cerimoniale, ce la spieghiamo dopo, però è praticamente la danza più popolare nello spettacolo americano di fine 800, primi 900, danzata da bianchi e neri, ed è la danza che accompagna il ragtime. Il ragtime, sia quello strumentale, sia ancora di più quello cantato con delle canzoni più leggere, è accompagnato da questa danza. Vorrei farvi sentire, per capire com'è musicalmente il cakewalk, un frammentino di un disco dei primissimi del Novecento, è un medley di due temi, sono tre temi cakewalk, sentiremo i primi due, un minuto di musica circa, per sentire, prima di vedere poi i passi meglio, per sentire com'è questo ritmo sincopato del cakewalk. Sono i Victor Minstrels 1902. L'aspetto sincopato è questo. Ah, ah, ah, ah, ah. Questo è il primo motivetto. È come una scenetta ricostruita in studio. Hold your head up, lady. Hold your head up. Lift your hat cool. Close your face for your head falls in. Oh, as long as night and morning you go back to Dixieland. And those ringing, donkeys singing, happy days in Dixieland. Questo è un esempio ritmico, ta ta ta ta ta ta ta ta. Questi ritmi sincopati erano già sentiti come una specie di rottura della rigidità, che so, del valzer o del, per esempio, della quadriglia, ma come qualcosa che permetteva al corpo di muoversi in maniera molto più libera. Abbiamo due documenti eccezionali emersi alcuni anni fa, eccezionali per molti aspetti, come vedremo fra un attimo, di filmati cakewalk, ovviamente muti, del 1903. Sono due filmati brevissimi, di pochi secondi. Questo è il primo. Guardate che cosa succede. Allora, non parte il filmato. Eccolo. Allora, perdonate, vediamo cosa è successo. Sì. Ecco la parata, dopo le piroette, è un filmato dimostrativo brevissimo, fatto in studio. Notate la parata, il tempo è molto rapido. Le ginocchia alte e si fermano. Tra l'altro avete visto all'inizio come il personaggio fa, quello a sinistra fa gli stessi passi che avete visto nel Texas Tommy. Cioè intreccia le dita, ecco, lo vediamo una seconda volta. Avrete notato che tra l'altro ci sono una donna bianca e anche un uomo bianco. Questo ne è un altro ancora. No, questo è sempre lo stesso che sta andando al loop. Faccio vedere il secondo, scusate. Ok. Non riesco a farvi vedere il secondo. Allora. Il busto è esatto, è umoristico con questo gioco. Notate la passerella, le ginocchia alzate. Beh, è un documento, ve lo faccio rivedere. Attenzione. È il Charleston già. Notate l'effetto cerimoniale, tra un attimo ce lo spieghiamo. La passerella, il movimento del bastone. Il bastone l'abbiamo visto anche prima, vi ricordate, nella Old Plantation. E di nuovo la passerella. Ok. Che senso ha il cakewalk? È chiaramente una parodia di qualcosa. Allora, per i bianchi era il tentativo dei neri, degli ex schiavi, siamo nel 1903, la schiavitù è stata abolita da 40 anni, degli ex schiavi, persone palesemente inferiori, che appartengono a una razza, peraltro, anche emarginata per legge, uso la parola razza come si usava nell'Ottocento, come se fossero, non fossero esseri umani, ma un'altra specie inferiore, burloni che sanno divertirsi, che giocano, sono sostanzialmente sciocchi e che provano a imitare la cerimoniosità delle vere danze dei signori delle ville schiaviste nel sud degli Stati Uniti. Di qui l'idea goffa di imitare la passeggiata, per esempio, lo scappellarsi nei confronti della signora, eccetera. In realtà il cakewalk era una parodia al quadrato, perché era la parodia dei bianchi che danzano in maniera cerimoniosa cercando di imitare le danze degli schiavi. Quindi è la presa per il culo dei bianchi che pensano di prendere per il culo i neri. Uso questa espressione, chiedo scusa per la volgarità, è studiata questa volgarità, sono settimane che me lo dico allo specchio, il tentativo di essere... è studiata questa volgarità perché la traduzione letterale dello slang afroamericano, il signifying, cioè prendere per i fondelli qualcuno utilizzando i suoi stessi mezzi espressivi. Quindi i bianchi si facevano un sacco di risate vedendo i neri che ballavano il cakewalk e poi magari lo ballavano anche loro senza sapere che erano l'oggetto della derisione. Un'altra danza che avrà un effetto rivoluzionario sul costume nostro occidentale, qui non parliamo del tango, che tra l'altro si intreccia con questa storia, ma ci porterebbe in tutt'altra direzione, è il cosiddetto two-step, perché sono due passi appunto a ogni ritmo, a ogni beat, e si danza in coppia con la partner abbracciata. Il two-step è una danza fondamentale nella prima metà del Novecento, perché è una danza legata a due personaggi che sono Vernon e Irene Castle, che sono probabilmente la coppia di ballerini bianchi più influente del Novecento. Vernon e Irene Castle sono veramente coloro che hanno portato il gusto del ballo a livello di massa. Noi oggi non riusciamo neanche a immaginare quello che hanno fatto Vernon e Irene Castle durante, diciamo, tra il 1914, 15, anche prima, 12, 13, 14, 15, negli Stati Uniti. In sostanza, i Castle, che erano un'elegante coppia americana, hanno anzitutto rivoluzionato, per esempio, il costume, Irene Castle ha rivoluzionato il costume femminile, con questi abiti molto leggeri che lasciavano intravedere le forme femminili e sono molto lievi, lui filiforme. Sono due danzatori che fanno una doppia operazione. La prima è quella di portare il ballo in grandi sale pubbliche. Queste grandi sale pubbliche sono le prime vere sale da ballo a pagamento della storia. Cioè non è, prima si ballava in sale pubbliche, sì, ma come dicevo si affittava un posto e ci si ritrovava di inviti a ballare tutti insieme. Qui parliamo invece di sale pubbliche in cui le persone pagano un biglietto per andare a vedere i Castle che danzano su una pista oppure su un palco, accompagnati, vedremo poi, da un gruppo musicale. Questo danzare implicava poi, in una fase successiva, implicato il coinvolgimento del pubblico che danza nella pista insieme ai Kestrel. E stiamo parlando di migliaia di persone che cominciarono a seguire questa coppia, che pubblicò poi anche manuali di ballo, insomma, rivoluzionò l'idea di che si potesse uscire e ritrovarsi tutti insieme, attenzione, non con gli amici, ma in una sala da ballo, nell'anonimato, e incontrare le persone in questa sala da ballo per ballare il two-step. Quindi la seconda rivoluzione dei Kestrel è stata quella di diffondere l'idea del ballo pubblico, la moderna discoteca. Ci ritroviamo tutti insieme, anche senza conoscerci, nello stesso luogo per ballare. Ad accompagnarla i Kestrel c'era una straordinaria orchestra di New York che, cosa clamorosa, era un'orchestra nera, fatta dal più importante compositore di cakewalk, ragtime e marce da banda del primo Novecento, cioè James Reese Europe, che qui vedete in abiti militari, perché Europe, forse con questo cognome che è un destino, portò nel 1917-18 i suoi musicisti a combattere durante la Prima Guerra Mondiale e, finite le operazioni militari, a suonare ragtime, jazz e blues davanti al pubblico francese del 1918-19. Europe è stato colui che ha portato la nuova sensibilità del jazz in Europa e accompagnava gli spettacoli dei Kestrel. Il prossimo filmato è uno, non si vede bene, ve lo dico subito, è un rarissimo documento, è apparso su YouTube una settimana fa, ho avuto un colpo di fortuna pazzesco, è un rarissimo documento dei Kestrel che ballano. In sé il documento sarebbe muto, perché è del 1916-17. Qualcuno, in maniera molto intelligente, in questo frammento di un minuto, ha messo un pezzo di Europe che si chiama Kestrel Walk, appunto il passo dei Kestrel, in sincronia con la danza. Funziona molto bene, così potete sentire un pezzetto di un disco di Europe intravedere, non vi posso dire di più, intravedere i Kestrel ballare. Eccezionale, tra l'altro avrete notato un altro tipo di passo che poi ci spiegheremo, questo scalciare all'indietro, anche quando la partner viene fatta volare, diciamo così, in semicerchio, e c'è questo movimento dello scalciare all'indietro, che è una cosa che viene dalle danze africane, come vedremo. Non mi ricordo più l'anno, comunque nella seconda metà degli anni 30 fu fatto un film sulla vita di Vernon e Irene Kestrel, e il film era interpretato dai due veri unici eredi e imitatori ed eredi di Vernon e Irene Kestrel, cioè Fred Astaire e Ginger Rogers. Vi faccio vedere che dovevano essersi studiati con attenzione. Fred Astaire sicuramente aveva visto i Kestrel dal vivo, quando lavorava nel vaudeville alla fine degli anni 10, sicuramente li avrà anche conosciuti, ma sicuramente i due devono essersi studiati il filmato che vi ho appena fatto vedere, perché nel film viene praticamente ricostruito in maniera uguale, con una piccola differenza, che la band che suona è fatta di bianchi, perché non si poteva vedere nella Hollywood degli anni 30 un gruppo di neri che suonano e accompagnano dei danzatori bianchi. Il dettaglio non è secondario, ma intanto vi faccio vedere come viene ricostruita la scena. Si può alzare? No, come on, dance with me. Mm-hmm. step, un, due, un, due, un, due, un, due. E poi si vanno a sedere, così questa scena. In realtà accadevano proprio così le cose. Il prossimo esempio, invece, vi fa vedere un altro tipo di danza che deriva dalle danze. I Kestrel furono tra l'altro gli inventori del cosiddetto Foxtrot, insieme a James Europe, che non era altro che suonare dei pezzi blues come Memphis Blues di William Christopher Handy ad una velocità piuttosto sostenuta. Nel corso degli anni 10 questi trotti, o i walks, i trots e i walks, divennero estremamente popolari, sono diventate le danze più popolari fino alla metà degli anni 20. Tra l'altro avrete notato nel filmato, in particolare si vedeva bene con Fred Astaire e Ginger Rogers, come il movimento dei piedi sia di tipo africano, avete visto, ricordava molto il Texas Tommy, ma l'impostazione del busto, del tronco, è ancora di tipo europeo, cioè rigida. Non ci sono i movimenti del bacino come avete visto nel filmato del Texas Tommy. Questo perché, o come anche nel cakewalk, perché comunque siamo in una situazione di decenza, diciamo così, ancora post-vittoriana. Queste danze si svilupparono inizialmente nei balli dell'aristocrazia newyorkese e poi sono dilagati nelle sale da ballo pubbliche. Allora, tanto per togliervi uno sfizio, da un DVD dimostrativo di un gruppo americano che ha fatto un DVD per mostrare quali sono le danze dell'epoca, guidati da questa signora, vi faccio vedere in rassegna rapidamente le diverse varianti del two-step e del foxtrot, cioè di questo danzare in due, avanti e indietro. Sono tutti trotti e danze legati curiosamente a nomi di animali. Fox trot, cioè il trotto della volpe, grizzly bear, l'orso grizzly, c'è il salto del serpente, eccetera, eccetera. Anche cose curiose, molto divertenti. There were the trots. The turkey trot. Turkey trot. Dog trot. Quello del cane. Horse trot, two different kinds. Pony trot. Pony trot. The wallaby jump. The squirrel step. Il passo dell'allodola. Kangaroo hop. Il canguro. And the flea hop. Non ho capito. Then there were the walks. The bunny hug. Fish walk. Fish walk, pensa con... Crab walk. A granchio. Camel walk. Il cammello. Duck waddle. Notate il movimento del bacino in questo. Lame duck. L'anatra. Snake dip. I serpenti, questo è il successivo. Serpentine. Serpentina. And the grizzly bear. E il grizzly bear, l'orso. The dances are obviously... In realtà queste danze furono molto popolari finché nel 1923 non esplose la più popolare di tutti, che invece era molto nera, molto africana, ed è il Charleston. Nel 1923 il compositore James P. Johnson, un compositore che potrei definire afroamericano, che potrei definire il Gershwin nero, a cui tra l'altro Gershwin deve moltissimo, grande pianista e grande compositore, scrive un pezzo dedicato alla capitale del South Carolina, Charleston, South Carolina, perché a Charleston, da Charleston arrivavano danze legate alla schiavitù, come il ring shout, basate su ritmi come questo, che è uno dei ritmi del ring shout. E questa danza era una danza degli schiavi e nel musical Running Wild l'ultimo numero consisteva in un grande, tipico ultimo numero di un musical in cui arrivano tutti i ballerini, il coro, l'orchestra e tutti insieme danzano la danza di Charleston, South Carolina. Dopo il successo di Running Wild, che era un musical completamente prodotto da neri, da afroamericani, questa danza dilagò ovunque negli Stati Uniti e per 3-4 anni questo ritmo divenne un ritmo conosciuto in tutto il mondo, dall'Asia agli Stati Uniti. Il video che sto per farvi vedere, che poi analizzeremo insieme, è un montaggio tra un video dimostrativo su come si balla, molto divertente, su come si balla il Charleston, e il pezzo di James B. Johnson montato sopra. Il video ovviamente originariamente era muto e qualcuno ci ha montato in maniera molto efficace il pezzo. Ora guardate i piedi. Lo scalciare, avanti e indietro, movimento delle braccia. Notate che viene automaticamente da muovere il bacino? Non è così scontato. Un frammento. Il Charleston, avete notato, è basato su piccoli, cioè diciamo su moduli di movimento molto brevi, come lo scalciare avanti e indietro, come questo incrocio dei piedi e ovviamente facendo da equilibrio con l'oscillare delle braccia anche in maniera molto ampia. Il successo di Charleston fu tale che voglio farvi vedere un documento eccezionale. Vi dicevo, fu un successo mondiale ed ha veramente portato una liberazione corporea. Uno dei vettori di questa liberazione corporea fu una ballerina che era stata in un musical Shuffle Along precedente a Running Wild di un paio d'anni prima, una ballerina di fila di nome Josephine Baker, che si fece notare perché era l'ultima della fila e aveva dei ruoli, non solo ballava, ma aveva anche dei ruoli comici, faceva ridere e sapeva ballare molto bene. La Baker, come sapete, fece un tour, arrivò a Parigi, mise a soqquadro il costume sessuale, anche degli abiti femminili. Qui tra l'altro avete visto, faccio una breve nota di costume, la ragazza con una gonna molto corta, si chiamavano le flappers, capelli a caschetto, gonne corte, con questa femminilità, diciamo così, seducente, allusiva e molto, molto leggera, che è una specie di evoluzione degli abiti leggeri di Irene Castle. Mi sto scoprendo stilista stamattina. Vi dicevo, la cosa importante è comprendere che questa danza e Josephine Baker in particolare portarono una vera e propria rivoluzione sessuale. Vi ricordo che Josephine Baker danzava praticamente a seno nudo con un famoso gonnellino di bucce, di finte bucce di banana e quindi con le gambe completamente scoperte. Ma il documento che voglio farvi vedere è invece di tipo diverso, perché nel 1927 il grande regista Jean Renoir girò un film che si chiamava Charleston, un film muto, quindi dobbiamo immaginare che la musica, il Charleston lo accompagnava, che è una storia veramente pazzesca, va visto, lo trovate su YouTube integrale. È la storia, attenzione, di un essere civilizzato che è un africano, che parte con un'astronave dall'Africa e va in una parte del mondo primitiva, che è Parigi. Cioè, quindi si rovescia completamente il cliché, no, dell'africano primitivo e dell'europeo evoluto. Sbarca a Parigi e trova una ragazza bianca, che è palesemente una primitiva, che gli insegna il Charleston. Dice, ma come, non conosci il Charleston? E gli insegna a danzare il Charleston. Tra l'altro questa ragazza la incontra davanti a una specie di tubo, cartellone pubblicitario, dove dietro c'è scritto Nana, perché Nana era stato un film precedente di Renoir, interpretato da quella ragazza. Quella ragazza, altri non è, che Catherine Essling, che è la compagna di Jean Renoir, nonché, scusate il cortocircuito abissale, una modella di suo padre, Auguste Renoir, che balla il Charleston. Quindi trovate un legame tra il pittore Renoir e il Charleston e il cinema della fine degli anni 20. Il nero è un ballerino di tip tap e di Charleston che scopriremo più avanti, che è Johnny Hodgins. Conformemente, come dire, alla tendenza sperimentale del cinema degli anni 20, Renoir filma alcuni passaggi del Charleston a rallentatore. Vi faccio vedere dei pezzetti, un pezzettino del film di Renoir. Notate, di base ci sono i movimenti del Texas Tommy, vediamo i dettagli, lo scalciare. Pensate, questa è stata una modella di Renoir, nonché l'interprete di Nana. E quest'uomo viene direttamente dagli Stati Uniti. È un maestro della danza, Johnny Hudgens. E poi Renoir ci fa vedere la danza al rallentatore. Dobbiamo immaginare che, ecco, notate il movimento del bacino, molto africano, con lo scalciare doppio. Una specie di anticipazione del moonwalking. Vi ricordate le ginocchia all'indentro come nel cakewalk visto poc'anzi? La mise decisamente succinta alla Josephine Baker. Guardate, i passi sono gli stessi del Texas Tommy. L'avvitamento. Di nuovo lo scalciare. Ecco, mentre lo vediamo, ricordiamoci che questa è una vera e propria rivoluzione del corpo. Immaginatevi una cosa del genere nell'Ottocento o nel Settecento. È qualcosa di inconcepibile. È una vera e propria rivoluzione in un modo nuovo di coordinare il movimento, di un movimento che è più liberatorio, in cui vedete braccia, gambe, bacino, piedi si muovono in maniera completamente diversa. E vi prego di osservare, anche perché su questo dovremo tornare dopo, da un punto di vista musicale, qui stiamo vedendo un filmato muto, il fatto che i passi sono brevi, corti e modulari, cioè sono piccoli passi brevi che vengono combinati, fra di loro. Indugio su questo filmato che è molto affascinante. Ed è anche, come dire, un interessante esempio di cinema sperimentale sulle nuove danze nere. Tanto è percepita come novità che Renoir preferisce giocare, vedete, con questo. Lui che impara finalmente dalla primitiva, da questa donna primitiva, impara i passi del Charleston imitandoli. Ecco. Da dove vengono questi passi? Io credo che non ci sia bisogno di alcuna spiegazione. Vi faccio vedere direttamente il prossimo filmato, che è una danza Zulu, che viene da Sudafrica, e guardatela, e basta. Eccolo lo scalciare. Le ginocchia in su. le ginocchia, da scacciare indietro. Questa è solo una parte della storia, poi ce n'è un'altra che è ancora più ritmica, che ha a che fare con la traduzione, come vi dicevo, di quei ritmi di tamburi con i piedi, cioè col tip-tap, con Master Juba, con William Henry Lane, ve lo ricordate che abbiamo visto all'inizio. Il tip-tap è stata la fonte principale di innovazione musicale nel jazz degli anni venti. Lo so, sembra un po' forte, ma intanto vi vorrei far capire che Louis Armstrong, che ha rivoluzionato il linguaggio ritmico e melodico del jazz, deve moltissimo al tip-tap. In particolare deve moltissimo all'interazione durante gli spettacoli, nei cabaret nei quali si suonava e si danzava, con ballerini, per esempio, come John Bubbles, che faceva parte di un duo che si chiamava Buck e Bubbles, Buck Washington e John Bubbles. Buck Washington era cantante e pianista, John Bubbles era ballerino. Io ho fatto mettere il pianoforte, ma no, non lo userò adesso per ballare sullo strumento. Vorrei che ascoltaste con grande attenzione i passi, il rumore, il ritmo che fa John Bubbles sul pianoforte. Aggiungo una cosa, non vi faccio vedere un altro filmato che potete trovare facilmente su YouTube, dove c'è John Bubbles che gioca con un bastone, e scoprirete improvvisamente una cosa semplice, che Fred Astaire è un allievo di John Bubbles. Un esplicito, lui l'ha sempre dichiarata questa cosa. Ha imparato tutto, compreso avete presente Fred Astaire quando gioca, per esempio, fa tutti i suoi numeri con un bastone, ci gira intorno? Ecco, ha tutto preso da John Bubbles. Vi prego di ascoltare attentamente il ritmo che Bubbles fa con i piedi. Prima di Bubbles, il tip-tap era come quello ballato da Bill Robinson, cioè era vicino allo shuffle, Bill Bojangle Robinson, cioè ballare ma con i piedi molto attaccati a terra e facendo quello che si chiamava il soft shoe, cioè delle scarpe soffici, un suono più morbido. Invece Bubbles ha cominciato a introdurre tutta una serie di passi, ma soprattutto, per quello che ci interessa, di ritmi molto particolari. Si può alzare un po', grazie. Fate finta che sia un batterista. Ascoltatelo come fosse un batterista. Avete sentito che razza di ritmi? Queste elaborazioni ritmiche risalgono agli anni venti e risalgono in particolare a delle jam session che si facevano in alcuni locali di Harlem. Attenzione, c'erano le jam session sia nei locali di jazz, in cui i musicisti si ritrovavano per suonare, ma c'erano delle jam session di tip-tap. Cioè i ballerini neri che lavoravano in spettacoli come Shuffle Along o Running Wild, dove c'era Charleston, o in altri spettacoli nei teatri o nei cabaret, finito il lavoro, andavano in alcuni club di Harlem e passavano la notte a improvvisare questo tipo di ritmi. E credetemi, moltissimi musicisti di jazz andavano ad assistere a queste jam session o interagivano in queste jam session perché lì imparavano tutta una serie di ritmi. Il senso di queste jam session è riassunto, secondo me, in maniera fantastica nel film Cotton Club di Francis Ford Coppola, in cui c'è una scena di jam session di tip-tap che rende veramente molto bene l'idea di quello che accadeva in quei locali. Yeah. continua. Cosa ha a che fare tutto questo con la musica? Beh, ha a che fare con il fatto che questo tipo di jam session in realtà poi avevano un correlato negli spettacoli che si facevano nei cabaret. In particolare, questi ballerini lavoravano spesso con dei trombettisti. Cioè, immaginate che durante lo spettacolo, nel cabaret, il trombettista suonava, accompagnato dal gruppo musicale, ovviamente, e dialogava con i passi del ballerino di tip-tap. C'è tutta una tradizione di questi dialoghi. Questo, per esempio, in questa foto che non è un granché, vedete Johnny Hudgens, quello che c'era prima nel film Charleston, con Louis Metcalf, che era un trombettista dell'orchestra di Duke Ellington. Vi va proprio l'idea, il trombettista è lì che dialoga con i piedi del musicista, del danzatore. Un altro esempio notevolissimo è il trombettista Bubber Miley, qui, che suona con Roger Price. Bubber Miley è un altro trombettista dell'orchestra di Duke Ellington, che dialoga con Roger Pryor Dodge, è un personaggio incredibile, Roger Pryor Dodge, uno dei più grandi ballerini neri tra anni 20 e primi anni 30, che poi lascia la carriera di danzatore per diventare uno dei più autorevoli critici musicali neri nell'America degli anni 40 e 50. Non è precisamente, faccio una piccola deviazione, vale la pena perché è un documento che sto farò vedere, è meraviglioso, non è precisamente un ballerino di tip-tap, Dodge, ma porta il gusto modernista, diciamo così, che vi posso dire, post-stravinskiano, alla Nijinsky, quindi più europeo, dentro la danza jazz. E alla fine degli anni 30 ha fatto un filmato in cui si fa accompagnare da un disco dell'orchestra di Duke Ellington, nel quale aveva suonato Bubber Miley, East St. Louis Toodle O, e nel quale danza con questa sua ballerina assistente, che danza con lui. Vi voglio far vedere un pezzo di questa danza perché vi dà l'idea di come questo gusto modernista europeo si è anche incuneato all'interno della danza legata al jazz. Salziamo il volume. Ecco. È un rifacimento negli anni 30 di una danza che risale agli anni 20. Questo vi spiega anche i costumi. I costumi, diciamo, picassiani quasi. Molto bello, se cercate il sito di Roger Pryor Dodge, che è curato da suo figlio oggi, trovate questa chicca veramente eccezionale. Dodge e altri come lui suonavano e ballavano al Cotton Club. Queste danze erano strettamente legate alla musica. La musica era pensata per la danza. In questi cabaret la gente pagava spesso cifre altissime, parlo di un biglietto d'ingresso fra i 3 e i 400 euro di oggi, per sedersi a un tavolino, come avete visto forse nel film di Francis Ford Coppola, che consiglio perché è un esempio filologicamente molto accurato di ricostruzione dell'epoca, pagavano, si sedevano a un tavolino e assistevano a uno spettacolo con la musica dal vivo e dei ballerini. Sempre di recente è venuto fuori un filmato muto, ma qui qualcuno ci ha aggiunto della musica di Duke Ellington molto opportunamente, in cui si vede l'interno del Cotton Club, un filmato che poi è stato ripreso anche da Francis Ford Coppola, in cui potete vedere il tipo di danze. Il Cotton Club era ad Harlem, su Lenox Avenue. Documentario sulla vita notturna di New York, fatto negli anni 20. Le ballerine erano nere di pelle chiara. L'orchestra dietro è quella di Duke Ellington. C'erano vari numeri, notate i passi. Il jazz, non c'erano i concerti di jazz, signori, la gente andava a vedere questi spettacoli e ascoltava anche la musica, strettamente scritta da Duke Ellington, strettamente legata ai passi che state vedendo. Costumi esotici. Ovviamente con le gambe delle semisse nude, praticamente le ballerine. Questo è Freddie Jenkins. Sonny Greer. Johnny Hodges, giovanissimo. Costumi bizzarri. Movimento del bacino, ovviamente. E poi il vecchio Texas Tommy, come vedete. Così, tanto per darvi un'idea. Ora, in questi cabaret, quindi avete visto, i musicisti interagiscono con i ballerini. Nel caso di Duke Ellington la musica era tutta scritta. Certo, ogni tanto un solista si alzava e improvvisava. Ma cosa succedeva nei locali in cui invece, come abbiamo visto prima, il trombettista dialogava direttamente con i ballerini? Beh, noi abbiamo un esempio concreto di questo, e in particolare delle innovazioni di Louis Armstrong, che lavorò al Sunset di Chicago, un cabaret lussuoso quanto il Cotton Club di New York, con una coppia di ballerini piccolini, Herbert Brown e Naomi McGraw, che ebbero una certa fama alla fine degli anni 20, fino ai primi anni 30, come coppia di ballerini tip-tap. E noi sappiamo che Armstrong suonava, come avete visto nelle foto di prima, di Louis Metcalf con Johnny Hodgins o Bubber Miley con Roger Pryor Dodge, suonava e dialogava con il numero di tip-tap che questi due ballerini facevano insieme. In particolare, noi sappiamo che facevano un pezzo che si chiama Big Butter and Egg Man. Naturalmente noi abbiamo il disco, non abbiamo il video di loro, ma vi faccio sentire solo l'assolo di Louis Armstrong. Ci sono due indizi, come ha scoperto uno studioso, che rimandano direttamente al rapporto con il tip-tap. La prima è una cosa che Armstrong in quegli anni non faceva mai. Sentirete, la solo inizia così, con una frase che fa pa-pa-ra-pa-pa, pausa, pa-pa-ra-pa-pa, pausa, pa-ra-pa-pa-pa, pausa, pa-pa-ra-pa-pa. Ripete tre volte la stessa cosa, con tre ritmi lievemente diversi e una breve pausa dopo. Secondo qualche studioso, questo è l'indizio del fatto che lui, siccome un numero fisso che faceva con i ballerini, lui suonava questa frase e il ballerino rispondeva col tip-tap, rifaceva la frase con una variante e il ballerino rispondeva con una variante. Nel disco il ballerino non c'è, c'è rimasta la pausa. Poco più avanti fa una figurazione ritmica che vi indicherò, che ve la anticipo, fa pa-ra-ra-ra-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Proprio, è una nota ribattuta, che è un passo da tip-tap, ve lo potrei far rivedere, risentire pari pari, fatto da John Bubbles sul pianoforte. Non è una frase trombettistica, è un elemento del tip-tap che è entrato nella frase jazz e va a innovare il linguaggio solistico. Pausa. Questo esempio è ancora più clamoroso nel prossimo caso, che è uno dei pezzi più famosi di Louis Armstrong, Potato Head Blues, quella solo che Woody Allen in Manhattan elenca fra le 10 cose per cui vale la pena di vivere. Per darvi un motivo in più per vivere, lo faccio risentire, ma ve lo faccio risentire da un altro punto di vista. Se andiamo a rivedere John Bubbles o la jam session del Cotton Club, del film Cotton Club che avete visto prima, vi sarete accorti che l'accompagnamento musicale è fatto semplicemente di accordi staccati del pianoforte. Perché? Sono accordi che lasciano il vuoto, che consentono al ballerino di sviluppare i propri ritmi. Tecnicamente questo accompagnamento si chiama stop time, cioè faccio un accordo, poi sto zitto, poi ne faccio un altro, sto zitto e vado avanti così, in modo che do modo al ballerino di potersi esprimere senza intralci. Lo stop time si trova spessissimo nel jazz e dove c'è un indizio sicuramente di rapporto con i ballerini. Pensate, ci sono dei dischi di jazz di gruppi minori degli anni 20 dove c'è lo stop time e nessuno suona. Cioè, è come se il gruppo stesse incidendo qualcosa che dal vivo era riempito dai ballerini. Nell'assolo di Potato Head Blues, Armstrong suona accompagnato dallo stop time, consapevole che quello è un accompagnamento per i ballerini, e fa una serie di figurazioni ritmiche, come quelle note ribattute che avete sentito, oppure all'inizio, che sono chiaramente, a mio avviso, passi di danza. Ecco, sentitelo. Ora. Tip tap. Anche qui. Sto dicendo che l'assolo più innovativo nella storia del jazz degli anni 20 ha assorbito gli elementi ritmici che vengono dal tip-tap, dalla danza e dall'interazione con la danza. Ora, molti musicisti sapevano ballare. Questa interazione non avviene solo perché Armstrong dialoga col trombettista come nelle foto che avete visto prima, ma perché questi musicisti sapevano ballare, avevano assimilato con il proprio corpo quelle figurazioni ritmiche. Vi faccio vedere questo filmato che io personalmente adoro, dura 2 minuti e mezzo, è l'orchestra di Noble Sissol, che è questo signore al centro, che era un cantante e compositore paroliere. Pensate un po', Noble Sissol era, tutto si chiude, il collaboratore di James Europe, quello che suonava con i Kestrel. Qui siamo nei primi anni 30 con la sua band in questo video dimostrativo, per farvi capire che questi erano musicisti totali. Niente, ve lo faccio vedere e basta, non sto neanche a commentarlo perché tanto si capisce da solo. Jack Carter è il batterista, Edward Coles è il basso tuba. E vedete cosa fanno? Fanno due pezzi. Il primo è cantato dal leader. Notate il basso tuba. Suona il basso. Il batterista è dietro il cantante. Fantastico. Da basso tuba, poi se ve lo andate a rivedere su YouTube, si vede proprio il momento in cui lui poggia il basso tuba e sparisce. Lui dice, che cosa fa? Va fuori campo, poi entra e balla in un modo incredibile. In realtà c'è una lunga tradizione di musicisti che sono stati ballerini di livello professionale. Tutti questi musicisti, certo, molti batteristi, per esempio Joe Jones, Frankie Dunlop era il batterista di Thelonious Monk. Slam Stewart, il cantante Eddie Jefferson, prima di cominciare a fare il cantante, è stato il primo cantante di Vocalese, come forse saprete, faceva il ballerino nei gruppi di Coleman Hawkins, il che vuol dire che Coleman Hawkins girava con un gruppo dove c'era gente che ballava. George Gershwin, noi sappiamo che era un ballerino pazzesco, grande quanto il compositore, da quello che ci raccontano quelle storie. Vi voglio dare un esempio di uno di questi, Ray Nance. Il trombettista dell'orchestra di Duke Ellington. Attenzione, quest'uomo suonava la tromba. E avete presente Take the Train? E lui il suo solo di tromba. Era un violinista eccellente, cantava e ballava. Perché questo faceva parte del lavoro. E anche buffo, ha un senso dello humor e balla bene. È come The Old Plantation. E poi canta. E balla. Don't mean a thing, all you've got to do is sing. Un po' di grammatica del tip tap. Oggi vi faccio venire un po' di fame, ancora qualche minuto. Anche questo filmato merita di essere visto. Un po' di grammatica del tip tap. Honey Coles e Charlie Atkins, due maestri assoluti del tip tap. Perché vi faccio vedere Honey Coles e Charlie Atkins? Per due motivi. Il primo è che in questa trasmissione televisiva sono in grado di spiegare i diversi tipi, perché quello che mi interessa farvi capire è quanto fosse modulare il tipo di danza. Quindi vi fanno vedere i diversi passi e poi come si combinano insieme. Qui sono con Marshall Stearns, che è stato autore di un libro che troverete citato nell'ultima diapositiva, fondamentale sulla danza jazz, sulla storia della danza jazz. Allora Marshall Stearns chiede, che era un austero professore di letteratura di Yale, chiede a questi due maestri di spiegare i diversi tipi di passi. Questo è un filmato molto lungo di cui vi faccio vedere un pezzetto. Poi alla fine danzano anche con l'accompagnamento pianistico, così vedete come interagisce col jazz questa danza. Il secondo motivo per cui ve lo faccio vedere è perché Charlie Atkins, quello più alto, è stato anche il coreografo di molti gruppi della Motown, come i Temptations. Cioè tutti quei movimenti che vedete eleganti, fluidi, eccetera, negli anni 60 e 70 vengono da questo tipo di esperienza qui. Guardate, è veramente molto affascinante. Anche se non si capisce tutto quello che dicono, ma semplicemente gli chiedo dei passaggi. 1, 2, 3. You can't jump too high, can you? No, he can't jump too high. If he does, he won't be able to make the taps, and he won't get back in time. If he doesn't jump high enough, he won't have the time either. Yeah, that's right. So this is a complicated maneuver. Timing. Well, the timing is very important. La sinistra è Marshall Stearns. For a great deal of rehearsal. Well, now, you know, there are apparently as many wings as there are time steps, and everybody has his own pet wing. How about showing us some wings, like the pendulum? Do the pendulum. All right. It's called that because you do the wing on one foot. The wing, cioè ora c'è un movimento laterale. And similar to a pendulum. Out. That looks like a very happy step, Charlie. A very happy step, Charlie. How about the rolling wing? Show me some more wings, honey. Rolling wing? Well, I'd like to do one similar to the one that Charlie did. It's called the saw wing, and you'll see the reason why. The rolling. Your arm is going and your leg is going in the motion of the same motion as the saw. How about the double wing? Double wing, that's Charlie's special. Ve lo faccio vedere perché tutti questi ritmi che sentite sono poi entrati nel linguaggio dei solisti di jazz. That's only it. Don't applaud. You get the rolling wing? Sure, I do. The rolling wing is a very easy wing to do physically, but it has a nice sound and a nice motion to it. Dice che quello che fa è facile fisicamente, ma fa effetto. Rolling wing. Laterale. And then you drop the heel when you're tired. This is a long heel drop. Then you shorten up when you don't have as far to go. how about getting Charlie to do some of these ballet steps that he works in with tap? Yes, do a couple, Charlie. Well, I'd like to think of taking a little of a slide. Perhaps a turn and a ballet move and ora mescola tutto, anche dei movimenti da balletto classico, dice slide, wing. Gira su se stesso. Move ballet. What's this about through over the top and through the trenches? Well, if we're going into flash depth, we've got to bring them in. Now, they were famous in World War I, and they've been used ever since for the finale. What's that? Il finale. Over the top. Yeah. Trenches? Show us over the come top. Come il gran finale. Well, that's... Would you like yeah, to... Yeah, I don't mind. All right. Over the top would be... Over the bringing top. Bringing one foot back, this one coming over, that's where it got its name. Uh-huh. It sounds something like this. But you look not many you jump over, you don't slide. You look like you jump over. There you do. This is where the audience applauds because you don't fall on your face. This is where we hope the audience applauds. How about trenches now? It goes well, with trenches it. Comes right back the over the top normally, and it's a trenchy sort of emotion. I'll show you. We have a routine called the BS, the Boy Scout. The Boy Scout Chorus. And yes. That has time jumpers, wings, over the top, trenches. Adesso mescolano tutto nel numero finale. Okay, one this side. Okay, here we go. Notate che c'è il gruppo jazz. Ora veniamo all'ultima parte della nostra conversazione con uno degli eventi più importanti nella storia della musica del Novecento, perché ha cambiato il modo di ballare e il modo di fare musica nel Novecento. L'apertura del Savoy Ballroom nel 1926 a New York, ad Harlem in particolare, era a pochi passi dal Cotton Club. Perché è importante l'apertura del Savoy? Perché, che ci crediate o no, negli anni 20, fino all'apertura del Savoy a New York, poi se ne aprirà uno anche a Chicago e poi via via in altre città americane, non esistevano delle sale pubbliche per ballare, cioè dove tu vai, paghi un biglietto e balli, per neri. Esistevano solo delle sale pubbliche per ballare per bianchi. Quindi il Savoy è la prima sala da ballo, grandissimo, ospitava fino a 2-3 mila persone, potevano ballare. Era al primo piano di questo palazzo. Aveva un pavimento che oscillava su una base per impedire che la gente che ballava facesse crollare il pavimento. Era una sala da ballo incredibile. Quale fu il successo del Savoy? Era nel cuore di Harlem. L'ingresso costava pochissimo. Si facevano anche le matinée della domenica mattina. Invece di andare a sentire Zenny, potevate andare al Savoy a ballare. Era quindi una sala da ballo di popolare, non, era un posto anche salubre, cioè non era il club dove puoi incontrare, dove ci può essere prostituzione, droga, malavita, era un posto pulito, quindi ci vanno le famiglie, i giovani, ed ha un enorme successo popolare e ha anche una politica razziale mista, ci possono andare bianchi e neri, principalmente ci andavano neri, ma se ci fosse andato uno di noi non l'avrebbero buttato fuori. Dentro il Cotton il Savoy c'erano due palchi sui due lati lunghi della sala, uno di qua e uno di là, come vedete qui se ne vede uno, con due orchestre che si alternavano, a volte era una bianca e una nera, e la gente in mezzo che ballava. E quello che succede al Savoy è un movimento popolare di trasformazione della danza e quindi della musica, che dà origine ad una nuova danza. Questa nuova danza si chiama Lindy Hop. Chiedo scusa, ho sbagliato. Ok, sì. Il Lindy Hop, intanto cosa vuol dire Lindy Hop? Vuol dire il salto di Lindbergh. Perché vi ricordo, nel 1927 Lindbergh aveva attraversato l'oceano Atlantico con il suo aereo e siccome questa era una danza dove c'erano dei passi anche acrobatici, prese il nome di salto di Lindbergh, Lindy Hop. Era una danza inventata dai neri tra il 1926, 27 e 28 al Savoy dalle persone comuni che ballavano. Il modo in cui si ballava il Lindy Hop ha, come vedremo tra poco, totalmente cambiato il modo di ballare delle persone e anche il modo di fare jazz in maniera radicale. E anzitutto un breve filmato che ci dà un'idea di come funzionava il Lindy Hop. C'erano delle vere e proprie gare tra il 27, 28 e 29 a New York. Ci furono delle gare di Lindy Hop da cui emersero dei passi e da cui emersero anche dei personaggi importanti, tra cui il più importante di tutti è quello al centro, George Shorty Snowden. Shorty perché era piccolino, come Herbert Brown, che abbiamo visto prima, e James Burton è quello che fa da presentatore e poi balla alla fine esattamente come Michael Jackson o Prince. Siamo qui agli inizi degli anni 30 e l'orchestra è quella di Chick Webb, che era l'orchestra regina del Savoy. Ecco come funziona un esempio di gara di Lindy Hop. È un cortometraggio di 3 minuti, forse anche meno, con delle coppie che ballano. His hop was Benny and that dashing little lady friend Lizzie Highfly. Questa è una prima coppia. Somiglia al Texas Tommy, ma ha gli scalci all'indietro del Charleston. Ma attenzione, si balla tenendosi. Non è come il Charleston che si balla separati, uno di fronte all'altro, uno a fianco all'altro. Si sta sempre in contatto. È fluido. Questa è la prima coppia. Mr. Oliver Hemingway and Buzzsaw Mamie. Questa è una seconda coppia. Sweet You, Just You è il pezzo che suona l'orchestra di Webb. Questi scalciano di più, notate, si muovono di più. Rispetto al Charleston, qual è la grande differenza? Certo, ci sono gli scalciamenti, guardate che fa lui. Ma è tutto più fluido e meno modulare. E infine, Shorty Snowden, uno dei veri e propri inventori dell'Indy Hop. Meraviglioso. Ok, salto un attimo questa cosa e passo alla diapositiva successiva. Vi voglio far comprendere come questi movimenti hanno cambiato il modo di scrivere la musica, di scrivere il jazz. E sottolineo scrivere, non improvvisare, proprio il modo di comporre la musica. Quando si ballavano il Charleston o un'altra danza che non ho citato, che era il Black Bottom, o danze di quel genere, avete sentito? Le danze, avete visto, sono tutte brevi, modulari, fatte di passi brevi e secchi che vengono combinati fra di loro. Questo ci spiega perché il jazz degli anni 20, orchestrale, per ballare quella musica, è pieno di fermate e partenze, perché si è liberi di ballare da soli e di combinare questi brevi passi a piacimento. Per esempio, questo arrangiamento di Don Redman. Sentite, suonano, si fermano. Si può alzare un po', grazie. Si fermano. Riparte. Si fermano. Di nuovo fermo. Poi col ritmo. Si fermano di nuovo. Riparto. Si fermano e ripartono. Cambiano le atmosfere, tutto continuamente mutevole, perché il tipo di danza è continuamente mutevole. Invece, quando si balla il Lindy Hop, avete visto nell'ultimo filmato, le coppie sono sempre legate fra di loro. Bisogna muoversi con scioltezza, con fluidità, E allora assistiamo a una vera e propria rivoluzione nel modo di organizzare la musica. Sparisce il basso tuba e al posto del basso tuba c'è il contrabbasso, perché il basso tuba fa pum, pum, pum, pum. Invece il contrabbasso fa 1, 2, 3, 4, 1, 2, e si suona in 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, non 1, 2, 1, 2, ma 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, tutto più fluido. Ma soprattutto la musica non si basa più su questi arrangiamenti iperframmentati, ma si basa su una fluidità, per cui per esempio non c'è più il banjo, ma c'è la chitarra. E la fluidità è data da delle brevi frasi, frasi sempre di origine africana, che chiamiamo riff. Frasi ripetute, non più temi articolati, complessi, pieni di, interruzioni, ma un semplice riff. Qui c'è ancora il basso tuba, che suona in quattro, ma la musica è il riff. Sentite. Ecco il riff. E non si ferma, non ci sono interruzioni. L'accompagnamento è... Non si sono ancora mai fermati. Vanno avanti così. L'accompagnamento è fluido. Questo tipo di scrittura musicale è destinata a cambiare lo stile del jazz degli anni 30. Il cosiddetto swing nasce da questo. Non nasce dalle idee degli improvvisatori, non nasce dalle idee dei compositori, nasce dalla sollecitazione dei ballerini ad avere una musica fluida. E il fatto che nasca, se qui in mezzo ci sono musicisti professionisti, lo sanno, se vuoi campare devi fare quello che vuole, che piace a chi danza. Comanda chi danza. E siccome al Savoy si stava sviluppando una danza nuova, fluida, il Lindy Hop, chi scrive musica, attenzione, non gli improvvisatori, qui la rivoluzione è fatta da chi scrive il jazz, come Edgar Sampson, scrive musica di questo tipo, riff, swing, contrabbasso, una concezione moderna ispirata dalla danza. Riff. Questo tipo di danza ispirò una danza ancora più acrobatica, di cui fu maestro Frankie Manning, i cosiddetti air steps, cioè il Lindy Hop acrobatico. Questa è una foto di Frankie Manning. È lui. Le gare di Lindy Hop svilupparono il bisogno di danze sempre più acrobatiche. E questo comportava il fatto che la musica doveva essere, per esempio, più veloce. Quindi lo swing ancora più carico. Io credo che l'esempio più clamoroso di Lindy Hop acrobatico è il gruppo dei Whitney's Lindy Hoppers, guidati da Frankie Manning, che vi faccio vedere in una celebre sequenza del film Hell's a Poppin', un film geniale, demenziale degli anni 40, un putpurri di scene, con gli all-stars di Slim Gaillard e Slam Stewart. Vabbè, ve lo faccio vedere. Questo è il Lindy Hop acrobatico di Frankie Manning. Si può alzare un po' il volume, grazie. Ovviamente sono vestiti in modo come li vedeva la Hollywood razzista, cioè fanno i cuochi, gli uomini di fatica, ma sono tra i più grandi ballerini della storia del Novecento. E la musica che loro chiedono, il jazz che deve esserci dietro, è questo tipo di jazz. Tenete conto che in realtà, sebbene poi negli anni 40 il bebop abbia spazzato via questa cultura che non è più da ballo, il ballo ha continuato a influenzare i musicisti di bebop attraverso grandi ballerini come Baby Lawrence, per esempio, che ballava al Minton's durante le jam session in cui c'era Thelonious Monk, per esempio, che suonava. Se voi guardate dei filmati dell'orchestra di Dizzy Gillespie degli anni 40, c'è sempre qualcuno che balla. Questo per dirvi che anche se poi dal bebop in poi il jazz ha smesso di essere principalmente musica da ballo e invece è diventata musica da ascolto, in realtà i musicisti che la facevano erano radicati in una cultura della danza attraverso ballerini moderni come Baby Lawrence. Tant'è che è possibile vedere del jazz solistico ballato con il Lindy Hop, anche se il jazz appunto è vicino al bop ed è solistico, nel famoso, vediamo un minuto, ed è veramente la penultima clip, famoso corto, Jamming the Blues, del grande fotografo Guion Mealy, in cui vediamo Lester Young e poi Charlie Shavers che accompagnano due ballerini di Lindy Hop. Questo è Joe Jones. Sidney Catlett dà il posto a Joe Jones. Il riff. Gioca sperimentalmente. Chiuderei con un altro filmato eccezionale per ricordare una cosa importante. Nel corso degli anni 30 e 40, le big band, quando voi andavate a sentire in un teatro, anche se non andavate a ballare, ma andavate in un teatro a sentire una big band, la big band aveva sempre un numero di danza con sé. C'erano coppie di ballerini, coppie di uomini o uomini e donne, che passavano da una big band all'altra e facevano i tour e ballavano sul palco a fianco ai musicisti, per due ragioni. La prima è che in questo modo chi ballava in platea, chi ballava sulla pista, era ispirato dai passi dei ballerini professionisti sul palco. La seconda ragione è che, come si vede nel filmato precedente, chi suona e improvvisa davanti a persone che improvvisano i passi di danza è stimolato ritmicamente. Tutti i grandi del jazz hanno detto che i dischi che hanno fatto non rendono minimamente l'idea, perché le orchestre suonavano con tutta un'altra foga, tutta un'altra carica, tutta un'altra intensità creativa, stimolata dalla interazione con le persone che ballavano. Una cosa è suonare in studio davanti a un microfono, una cosa è suonare al Savoy con 2000 persone che ballano davanti a te. E come dice un musicista, dice: io sapevo se la musica era buona o cattiva capendo se la gente riusciva a ballare o meno. Se la gente non balla vuol dire che non c'è abbastanza swing. Quindi l'essenza della musica è strettamente connessa ai ritmi dei passi e al ballo. Questa presenza dei musicisti, dei danzatori nell'orchestra trova il clou in questo filmato che viene, se non ricordo male, da Stormy Weather, in cui si vede questa coppia di ballerini, forse qualcuno di voi lo conosce, è un numero celebre, chiuderei con questo, e l'orchestra di Cab Calloway. Vorrei farvi notare che quello che è piuttosto allarmato, il sax tenore qui in primo piano che si sposta, è il grande Chuck Berry, che scomparirà poco dopo, uno dei più grandi sax tenori, purtroppo molto giovanissimo, negli anni primi anni 40. Jumping Jive, l'arrangiamento è pensato per la danza. Qui l'unione fra musica e danza è incredibile, senza dire il resto. Buon divertimento. C'è prima Cab Calloway. Il jazz è spettacolo. Quello è Chuck Berry a destra. Credo che non ci sia altro da aggiungere. Grazie, ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie.